Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi segnalo una mostra che è in corso al Castello di Santa Severa vicino a Roma, dedicato al tema della canzone italiana. Tu parlavi una lingua meravigliosa quando la canzonetta divenne poesia, è curata da Giuseppe Gurrara e Igor Patruno, è aperta fino al 13 settembre. Il catalogo è pubblicato da Edizioni Cambia una virgola. Una mostra originale che studia gli anni 60 e 70, quando i rapporti tra canzone e poesia si fecero più stretti e videro autori come Pasolini scrivere testi, per esempio, per Cosa sono le nuvole di Modugno. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasi. Abbiamo ascoltato qualche nota e tra l'altro in quegli anni l'industria discografica fece il cammino inverso, cioè mise i dischi a disposizione dei poeti, molti dei quali incisero le proprie voci. Calvino, per esempio, lo fece con un'antologia dell'Orlando Furioso. La funzione terapeutica della musica rock troviamo approfondita nel libro di Massimo Cotto, una popolare voce di Virgin Radio e scrittore, Rock Therapy, rimedi in forma di canzone per ogni malanno o situazione, pubblicato da Marsilio, 492 pagine, 12 euro. Qui l'autore si rifà alle parole che gli aveva detto un giorno a Berlino David Bowie: le canzoni sono a volte la migliore medicina per noi nel mondo. E vuole, senza prendersi troppo sul serio il libro, suggerire, scrive l'autore, in prima battuta alcune pillole di rock da ingerire a seconda delle circostanze, dei malesseri o malumori o malanni. E il libro in vari capitoli ci indica dunque situazioni più o meno patologiche e terapie adatte. Questo è il quadro clinico. Vi propongo qui i rimedi più efficaci per arrivare alla fine della giornata perlomeno abbronzati quanto basta e possibilmente felici. Basta seguire il ritmo e cavalcare le onde surf e quelle country rock, lasciarsi prendere da ritornelli e giochi musicali che alleggeriscono e stemperano, con la loro freschezza, la calura a cui non abbiamo potuto sottrarci e dalla quale tentiamo di ricavare, se non altro, il beneficio di una pelle dorata. Dorata come il mondo patinato che questi brani prospettano, canzoni spensierate che colpiscono come raggi caldi appena rinfrescati dalla brezza marina. E questa una delle soluzioni. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Era i Get Around dei Beach Boys che cantano, scrive l'autore, un mondo dorato e spensierato fatto di spiagge, macchine, ragazzi, adolescenza che nessuno vuole pensare possa svanire. Una canzone fresca e innovativa sotto l'aspetto musicale. Un altro approccio insolito al rock è quello proposto da Alberto Rezzi, editore e traduttore, che esplora la filosofia di Jimi Hendrix. Questo è il titolo del libro, Viaggio al termine del mondo, pubblicato da Mimesis, 148 pagine, 10 euro. La filosofia di Hendrix viene presentata attraverso l'analisi di album e brani famosi dell'artista, di cui l'autore vuole esplorare, scrive, l'universo immaginifico, interpretandone l'arte soprattutto come una straordinaria e attualissima costruzione di mondi, intesa come capacità di utilizzare linguaggi precisi, e lui ne ha usati moltissimi, scrive l'autore, dal simbolico al corporeo, dal poetico al musicale, dal fantascientifico al sonoro, per costruire nuove esperienze del mondo e al contempo rappresentazioni di mondi diversi. L'autore presenta i riferimenti filosofici alla visione del mondo di Hendrix, poi l'analisi delle opere a partire da questa Stone Free del 1966, dove Hendrix esprime la sua concezione della libertà. Stone Free, questo concetto, spesso abusato e logoro, qui, in primo luogo, suona come una potente espressione di liberazione dopo le ristrettezze e la mancanza di libertà sperimentate per anni. Più in generale, però, per Jimmy si trattava concretamente della libertà artistica, d'azione e di movimento, della libertà dagli stereotipi e dalle immagini comuni. Parlano dei miei vestiti, ma non capiscono che sono loro quelli fuori dal mondo, dice emblematicamente in Stone Free. della libertà dalle catene sentimentali e dalle gabbie di plastica. Questa rivendicazione di libertà assume in Hendrix anche una sfumatura più ampia. Non solo il non volersi sentire legato, il non voler essere tenuto a laccio, ma ancor più a fondo il desiderio di sentirsi individualmente libero di correre lontano, di cavalcare nel vento, cioè di filarsela, di andarsene via prima di restare definitivamente intrappolato nel mondo. Un'aspirazione profonda che trovava espressione anche nello Stay Free, con cui spesso siglava fotografie e autografi. Hendrix tentò l'esperimento di fondere il rock, il rhythm and blues e il jazz d'avanguardia con esperimenti che non pubblicò ma finanziò privatamente. Ce lo ricorda un grandissimo storico, Eric Hobsbawm, il grande storico britannico morto nel 2012, nel libro Storia sociale del jazz, pubblicato da Mimes, 476 pagine, 26 euro. Lo storico aveva pubblicato questo libro con uno pseudonimo nel 1959 e aveva voluto studiare i tratti rivoluzionari di questa forma artistica così legata, come scrive egli stesso, agli aspetti dominanti della società. Diventare il linguaggio base della danza e della musica popolari nella civiltà urbana e industriale. E nell'introduzione Hobsbawm esamina il rapporto tra jazz e rock, e qui parla appunto di Hendrix, il secondo, il rock, destinato a non essere ben presto musica di minoranza, perché fu il figlio del miracolo economico, mentre il jazz rimase, scrive Hobsbawm, musica d'arte sia pure radicata nella cultura dei plebei piuttosto che dei patrizi, ed è molto utile l'appendice di Arrigo Zoli con le schede sui protagonisti del jazz. Qualche settimana fa abbiamo anticipato il 150° anniversario della nascita di Maria Montessori, che cade domani, e ricordiamo questa grande italiana col libro che le dedica Cristina De Stefano, Il bambino e il maestro, vita di Maria Montessori, 384 pagine, 20 euro, pubblicato da Rizzoli, nel quale ritroviamo dei carteggi inediti e tracce di nuove testimonianze dirette che ci danno un quadro spesso inedito della grande educatrice. Montessori fu scolare difficile, passò l'esame elementare soltanto a 13 anni, appassionata di recitazione all'inizio, poi seguì una carriera insolita allora per le donne, quella scientifica, si iscrisse rocambolescamente a medicina, dove non avrebbe potuto perché non aveva seguito gli studi classici, e sarà la terza laureata donna in medicina a Roma, e poi diventerà militante femminista, ma soprattutto esperta e autrice di un grande nuovo modello pedagogico elaborato in Francia, e di qui nasce il suo impegno che la segnerà per tutta la vita attraverso traversie e difficoltà puntualmente rievocate da De Stefano, che ricorda anche l'accoglienza che il suo metodo ebbe subito a Milano, alla Società Umanitaria. E il libro mette bene in luce il senso complessivo dell'opera di Montessori, che al termine della sua carriera aveva bene in mente che ormai non si trattava più soltanto di scuola e di bambini, ma di umanità. Scrive l'autrice, infatti, il suo studio dell'attenzione infantile può dirci molto anche su quella dell'adulto. E per l'autrice, la Montessori credeva nella lentezza, nella fatica di capire fino in fondo. Perciò, conclude, il pensiero di Montessori ci sfida anche oggi. Montessori fa domande scomode. Di Montessori, Garzanti pubblica Tutto quello che dovresti sapere sul tuo bambino, che è un'opera ricavata da una serie di lezioni che la Montessori aveva svolto in India, dove si era rifugiata in esilio dal fascismo nel 1939. Queste lezioni erano state pubblicate in inglese e sono tradotte da Monica Salassa, curate da Anthony Gnana Prakasan, 168 pagine, 10 euro. E a questo punto il confettino. Non possiamo mancare di segnalare il materiale scolastico ispirato a Montessori, che ancora viene pubblicato per esempio da White Star. Gallucci invece pubblica Le carte della natura Montessori, 11,70 euro, e Ippocampo Ragazzi ripropone le famose lettere smerigliate da toccare per preparare il bambino a leggere e a scrivere, 22 euro. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Quei Cruciani, ultimi giorni, scroccate le ultime cene che poi si riparte a bomba. Parenzo, metti via pannolini, biberon, circoncisioni varie, che adesso si riparte alla grande. Perché la zanzara non è una trasmissione, è uno stile di vita. Non capite un cazzo. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Radio 24. Fra poco di nuovo in onda. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo subito la nostra rubrica estiva. Il mattone. Questa sera il nostro ospite è Patrizia Zappamulas, attrice e scrittrice, che ci propone un grande classico. Quando c'è molto tempo a disposizione, o meglio, quando il tempo improvvisamente si libera dei suoi impegni frenetici e quotidiani, come è successo durante il lockdown, c'è sempre nella testa di chi legge la domanda: ne approfitto per leggere qualcosa che non ho mai avuto il tempo di leggere. E io mi sono letta i drammi storici di William Shakespeare. Sono testi, anzi copioni, che raramente si vedono in Italia perché riguardano moltissimo la storia nazionale inglese, e a parte Riccardo III, che appartiene a questa serie di lavori shakespeariani, che è l'incarnazione del male assoluto e viene continuamente messo in scena adombrando figure molto più recenti e molto più universali, da Hitler a qualunque tipo di dittatore o di sterminatore. A parte Riccardo III, gli altri drammi storici di Shakespeare sono poco frequentati nei nostri palcoscenici, e anche per questo forse non li avevo mai letti. Ne ho visto qualche versione fatta dalla BBC con attori inglesi e credevo di aver esaurito l'argomento. Invece, dato che sto lavorando su Ofelia, quindi su Amleto, sul copione di Amleto e su William Shakespeare, ho deciso che durante il lockdown mi sarei letto i drammi storici, che devo dire mi hanno sorpreso moltissimo. Sono rimasta ammirata, meravigliata. Ho provato anche un po' di invidia, devo dire, per un paese che già alla fine del 1500 ha fatto un'operazione di narrazione della propria storia a tutti, dal contadino al barone, dal borghese al commerciante, di che cosa fosse la loro storia, da dove venivano i loro problemi, i loro conflitti, e l'abbia raccontata così bene. Bisogna considerare che in quel momento c'era in Inghilterra la grande guerra di religione, cioè il conflitto fra protestanti e cattolici. C'era una situazione di enorme difficoltà. Non era proprio una guerra fredda, nel senso che era una guerra che nel corso di un paio di secoli si è combattuta molto anche sui campi di battaglia, ma è stata soprattutto una guerra civile insidiosa, una guerra che spaccava in due l'Inghilterra. I nemici erano i vicini di casa, insomma, una situazione molto pesante. In questa situazione un gruppo di geni che hanno fatto il teatro elisabettiano, appunto, hanno raccontato al loro pubblico popolare e senza troppe distinzioni di classe da dove nasceva quella loro sofferenza, cosa c'è dietro l'inquietudine di un paese o la sua sofferenza. Siamo intorno al 1590, sono passati 70 anni da quando Enrico VIII ha fatto lo strappo da Roma, e sono 70 anni che dura questa situazione di grande conflitto. Gli ultimi drammi storici che ho letto e che mi hanno, devo dire, più colpito, perché erano quelli che non avevo più mai letto, mai neanche visto messi in scena, sono Re Giovanni, Edoardo III e Tommaso Moro. Tommaso Moro che, notate bene, fu giustiziato dal padre di quella che era in quel momento la regina, e fu giustiziato perché non assecondò, era il cancelliere di Enrico VIII, e non assecondò la sua scelta di divorziare dalla regina Caterina, regina cattolica Caterina spagnola, e sposare Anna Bolena e fare lo strappo dal resto dell'Europa cattolica. Quindi un argomento molto delicato. Infatti il copione di Tommaso Moro fu scritto da diversi autori e rimaneggiato e rivisto e molto censurato. È stata conservata addirittura la pagina con i commenti della censura che dice: tagliare questa scena, non si può fare questo. C'era una censura molto attiva, naturalmente. E questo ci porta a qualcosa che ci riguarda da vicino, almeno sul piano simbolico. In quel testo si racconta una rivolta xenofoba contro i Lombardi. Con Lombardi si intendevano i banchieri, anche se poi i banchieri erano anche francesi e fiamminghi, ma erano soprattutto Lombardi, che prestavano il denaro a re Enrico VIII nel 1017 suscitò una rivolta popolare violentissima. Ora nel 1590, quando i nostri autori stanno scrivendo il Moro, c'è un clima analogo, c'è in aria una rivolta contro gli stranieri che stanno arrivando numerosi in Inghilterra e portano via il lavoro alle classi più deboli inglesi, qualcosa che ricorda un po' la situazione nostra e attuale. Bene, quei geni della storia hanno inventato un modo di raccontare la storia del proprio paese a tutti e sono di fatto la fonte di tutto il cinema che oggi vediamo, il cinema indipendente, il cinema civile, il cinema di denuncia, che è un filone molto attivo negli Stati Uniti e in Inghilterra, molto meno in Italia. E provo molta ammirazione e, ripeto, un po' di invidia per un paese che ha saputo raccontarsi e per una monarchia, anche per una classe dirigente che ha capito che è fondamentale per un paese avere una coscienza precisa della propria storia. E ai drammi storici di Shakespeare sono dedicati 3 volumi nell'edizione dei Meridiani, ciascuno costa 80 euro, 1240, 1114 e 1116 pagine, un'edizione che troviamo pubblicata anche negli Oscar. Di William Shakespeare, Anthony Manday, Henry Chettle, Thomas Dekker e Thomas Heywood troviamo anche il Tommaso Moro, di cui ha parlato Patrizia Zappamule, si è pubblicato dall'Indau, 188 pagine, 18 euro, curato da Edoardo Rialti. Mentre sullo Shakespeare politico vi segnalo il saggio di un politologo tedesco molto appassionato dei rapporti fra teatro e politica, Eckhard Krippendorf, autore di Shakespeare politico, drammi storici, drammi romani, tragedie, pubblicato da Fazio, 346 pagine, 29 euro, tradotto da Benatti e Francesca Materzanini. Dopo il mattone, se volete, possiamo affrontare qualche libro sui viaggi che magari quest'anno non faremo, e segnalo per cominciare quello di Franco Cimmino, celebre egittologo, autore di Vita quotidiana degli Egizi, 328 pagine, 27 euro, pubblicato dal Saggiatore. Qui troviamo un libro che vuole sfatare le conoscenze sommarie o l'impressione o qualche semplice remoto ricordo della civiltà egiziana che rischiano di farci perdere di vista la realtà autentica di questa grande storia durata circa 3.000 anni e dotata di caratteristiche molto particolari perché, come scrive l'autore, tra le civiltà più antiche, quelle dell'Egitto, forse più di ogni altra, ci permette di seguire alcune fasi del processo evolutivo che fu soprattutto opera dell'uomo, della sua capacità di adattamento all'ambiente, della tenacia che usò per trasformarlo, del suo interesse in ogni campo. E il libro ci dà tutti gli elementi per comprendere questa civiltà, dalla descrizione dell'ambiente nel quale si sviluppò, alle istituzioni, all'economia, alla cultura e all'arte, con sorprendenti scoperte, per esempio questa che adesso vi propongo da queste righe, relativa all'interpretazione dei colori. Gli Egizi amavano i colori brillanti e dipingevano i monumenti, le statue, i mobili. Erano colori rituali usati per fini sacri, a cominciare dal bruno usato per il corpo degli uomini e dal giallo ocra per quello delle donne. Il nero era il segno della rinascita postuma e della conservazione perenne. Per questo Osiride era dipinto di nero e a volte di verde come simbolo della rinascita vegetale, della giovinezza e della salvazione. Il blu era il colore sacro ad Amun, e il giallo era il simbolo dell'oro, carne degli dèi. Il bianco significava fasto, trionfo e gioia. Il rosso era il colore del male e della malvagità. Era il colore di Set, il fratricida, che uccise il buon dio Osiride. Erano maledetti e ritenuti bestie malefiche gli asini e i cani di pelo rosso. Anche gli uomini dai capelli rossi venivano schivati e sui papiri si scrivevano in inchiostro rosso le parole di cattivo augurio. Soltanto la corona del Basso Egitto accettava il rosso come colore di buon auspicio. Alcune delle testimonianze artistiche più importanti dell'antico Egitto sono legate all'arte funeraria, che non ha cessato di alimentare nei millenni espressioni culturali molto importanti. Ne è una prova una classica meta parigina, il cimitero del Père Lachaise, di cui Schirà pubblica una guida particolare, L'Italia del Père Lachaise, vita straordinaria degli italiani di Francia e dei francesi d'Italia, curato da Costanza Stefanoni, 276 pagine, 60 euro. In questo, che è uno dei più celebri cimiteri al mondo, sono almeno una sessantina gli italiani celebri sepolti o che lì sono transitati, tra questi per esempio Bellini e Rossini. Per esempio c'è la tomba di Modigliani, che morì proprio 100 anni fa a Parigi, ma anche la Calla, Spiero Gobetti, Fratelli Rosselli, Giuseppe De Nittis e tanti altri. E se oggi noi viaggiamo per turismo, per secoli una delle molle più potenti ai nostri viaggi era la devozione. I viaggi dalla gente del popolo, quando potevano farli, erano i pellegrinaggi verso i santuari che custodivano le reliquie più importanti della cristianità. Fra le più curiose di queste reliquie troviamo i 30 denari che i sacerdoti ebrei avevano dato a Giuda perché tradisse Cristo. Giuda, prima di impiccarsi, restituì i soldi ai sacerdoti che ci comprarono il famoso campo del vasaio. Ma le monete, quei 30 denari, che fine fecero? Diventarono appunto delle reliquie disseminate per tutta l'Europa. E ce ne narra la storia Lucia Travaini, che è una storica dell'Università degli Studi di Milano, esperta di numismatica, nel libro I 30 denari di Giuda, storie di reliquie impreviste nell'Europa medievale moderna, pubblicato da Biella, 356 pagine, 30 euro. Dall'appendice al libro veniamo a sapere che in realtà dei 30 denari esistono 54 esemplari in 40 luoghi, ma quelli davvero provenienti dal gruzzolo dei 30 dovrebbero essere solo 8. L'autrice parla perciò di moltiplicazione, che ebbe a Rodi uno dei suoi centri, e tra le reliquie c'erano anche, per esempio, in Brianza, a Barzanò, tracce del terreno che sarebbe stato acquistato con quelle monete, oppure il banco di marmo ancora visibile nel chiostro di San Giovanni Laterano a Roma, sul quale i 30 denari erano stati contati. Una storia appassionante, insomma, che fa capire molto del culto per le reliquie e dell'impatto sociale che esso ebbe per secoli. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carmelo Lauricelli e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.